fanculo. Devi andare solo a fanculo e adesso fallo col culo invece di farlo con la bocca, stronzo. E attenta a non cagarti. Sì, anche tosto. Non hai capito, devi andare a fare in culo, eh? E questo ci provi a fare lo stop. Brucia, brucia! Ci cucano alle 10, c'è qualcuno? Attenzione Marco Condor, ci sei? Hola, hola, hola, hola, buonasera! Hola, buonasera! Eccomi. Oh, sei. Ma Gianfranco non c'è? No, buonasera. Sono appena entrato in radio qua. Per dirle appunto di quel numero. No, io ho già preso nota. Come sto uscendo di radio? Bene. Forte, media, fischi, non fischi? No, no, bene, bene. Capo. Aspetta che io ero senza approcce. Ok. Oh. Vabbè, si sente rumore, c'è il phone acceso. Sì, anch'io sono senza approcci. Però voglio vedere un po' il microfono. Ah, e basta. 40% il microfono. Aumentalo, mettilo a... Allora, che mi ricordo io in AM, quella radio lì la usavo al 60. 55-60. Ecco, 60% adesso. Fa molto meglio. Ascolta, il prossimo c'è inizio? No, non ce n'è. Non ce n'è in AM? No, c'è, ma sto usando il 60. Il 60 è nuovo, sembra uscito dalla scatola. Che mie sono uffi. Non le voglio io di mondezza. Ascolta, l'impedenza quanto ce l'hai? 50 o 500? Aspetta che non lo vedo, lo prendo la fine, un attimino. Guarda, sono frenato, se 50 o 500 l'impedenza? A 500 c'ho. No, no, mettilo a 50 a te che spinge di più. Aspetta un attimo, secondo solo. Ecco qui, 1, 2, 3, 4, prova radio. Ok, lui sta già spingendo di più. E sotto com'è? In o out? La levetta di sotto del 60, è indietro o in avanti? Sollevalo. E beh. Levetta è in. In? Sì, in. Ok, va bene, va bene. 1, 2, 3, 4. Anche... Come c'è il processore a vedere? Come si spinge bene come queste? Sto già fischiando, porca miseria, aspetta. Aspetta un attimino, ecco qui, fischia troppo. Fischia troppo, basta abbassare. Se l'hai messo a 50, metterò a 40%. Hai carrier? No, sempre il livello microfonico, quello c'è la digitale il livello microfonico. Processore inserito e adesso abbiamo a 80% del processore. No, è troppo alto per quello, abbassa la percentuale. Tieni a portante premuta e abbassa. Vabbè che mi sto anche ascoltando, un attimino. Aspetta un secondo solo per la cuffia. Bravo, buono della cuffia, se no mi mandi questo rientro e non capisco, non riusciamo a fare la regolazione. Ecco qui, c'ho proprio. Sì, c'è un piccolo fischietto sotto, dai. Ma cosa c'hai acceso? Niente, gli ho messo... Cavolo, sì. Ci ho messo due ferriti per non fischiare così. Che strano, beh. Sembra un rientro di RF. Aspetta. Sì, questo... Diciamo al 50% c'è il processore. Ascolta, e toglio il processore, metti al 100% il Mickey Game. Toglio, stacca il processore. Ecco, adesso l'ho tolto. se non parlo innesca, però sto facendo così. Processore, abbiamo 75% di processore a un palmo da microfono. Vai. No, va bene. Non spinge molto, però era quello che io appunto non era una cosa che per me nemmeno non fa perché è così, è quella digitale, quindi tutti questi sono, andava, se non era analogico di quella marca lì è un casino, però già va bene, dai, fregate, ma ce l'avevo una 50 come impedenza, il 60 lasciava in posizione in, il macchine metto la 50, 60%. Sì, ho notato che queste sono le batterie incorporate in microfono, cioè ci sono le batterie dentro. No, cazzo, togliere le batterie, che vuol dire che lo usava con la radio a buio, questi deficienti non capisco, togliere quello l'innesco, togliere le batterie, non ne fai niente le batterie, si è alimentato 8 volt dalla radio 60. Sì, ma lui lo utilizzava su questa radio, capito, questo MC60. Adesso siccome lui me l'ha mandato già smontato il microfono con i suoi alloggiamenti, con le sue bustine di plastica eccetera eccetera, io l'ho riassemblato, cioè ho riassemblato il microfono che mi ha staccato, vabbè, il cavo della spiraletta, e poi c'era staccato il basamento dal porta microfono dall'interno, ecco perché ho visto la batteria. No, togli le batterie, togli, non servono a niente. Le batterie nel 60 si mettono quando non hai l'alimentazione, usi su una radio che non ha l'alimentazione diretta. Il 60 è alimentato da quella radio lì a 8 volt, quindi togli le batterie perché quello rientra. Ecco, vediamo un po' adesso, ho abbassato addirittura il... il monitor, mi sto ascoltando perché sono in monitor, diciamo in il parlascolta, ecco, per intenderci. Sì, ma devi togliere le batterie, te non servono niente le batterie nel 60. Se lo usi con una radio che non ha gli 8 volt, allora sì. Ma per tutti i K è alimentato da solo il microfono, io batterie non ne ho da nessuna parte. Infatti non innesco da nessuna parte, no? Togli. Vabbè, dammi un minuto e stacco questo 60 e metto l'altro, quello che avevo, dai, un attimo. Quello che non ha batterie, prova. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda se le posizioni sono uguali, 50 K e la posizione in amplificazione. È uguale, identico. Vedi, questo non mi fischia. Questo è perfetto, sento anche la modulazione molto più corposa, molto più pulita secondo me. Anche secondo me, ma infatti le batterie non devono funzionare. Adesso che fai la prova, inserisci il processore? Questo è vecchio, il microfono MC60 è vecchio modello, è un po' scusumingiato come dicono a Cagliari, c'ha qualche cosina, però processore, vediamo un po', eccolo qui, il processore inserito dovrebbe essere un po' diverso, dammi conferma o meno. Dalla 500 alla Mercedes, Bogannini batteria che sono i 60, lui lo stai fischiando, adesso sì, adesso è un K. Adesso è un K, e io la modulazione la sento fina però, eh. No, va bene. Tu la senti fina perché sei in cuffia, ma qua io non la sento fina, è bella corposa, è molto molto bella, bella K. L'altra invece non era K, tutta frusci. K. Togliere, apro, vado una pulitina sotto, e Bogattini si batterie. Anche una volta parlano 60, attacco e ne scava, e con le stesse regolazioni, ho detto ma cosa c'è sto 60? Diamole un'occhiatina, perché io ce li ho, mai avuto fischi con 60. Però proverai le tiro dentro, dite vecchia neghia. Mi hanno tolto, richiuso, perfetto. E vabbè, allora, mi sto programmando nuovamente tutte le memorie, allora più 1600, vediamo 1600 come cavolo si scrive, 1.600, eccoci qua, più 1600, 88.5 il tono, KK. 88, e qual è 88? Qual è? Mi sono rimasto a 74.4. Link nazionale. Ehi, amato tenuta. Ecco perché ho memorizzato, non perché c'è 74.4 sul 910 H. Invece 88? 88.5 e poi lo cambio, perché tutti gli altri sono sempre quasi a 74.4, vabbè, quelli che interessano, anche se metto come interessa. Sì, te, il microfono, allora mettiti a posto, togli le batterie, lascialo stare senza batterie, te va bene. Sì, no, adesso non faccio niente, lo lascio lì, non lo tocco per niente. Utilizzo questo, posso mettere sempre, ho il MBP5 sempre qua che è già cablato per il Kenwood, ho il Turner più 2, no, il Turner più 3, quello grigio, quello americano, lo posso sempre connettere qui perché sono già cablati per il Kenwood. Fammi sentire il più 4, perché anch'io ho più 4 cablato Kenwood e ti dico che è una cannonata col 140, addirittura col 440 sfigge troppo, ma col 140 va benissimo. Ecco, aspetta, se un secondino cambio tutto, perché qui sono un po', ecco, sono un po' accampato, dai, la verità, sono un po' così, adesso sul tavolo metto, prendo il microfono e te lo faccio sentire subito, un secondo. Cappa. Ma adesso c'è la batteria dentro. Vabbè, se non c'è la batteria, pazienza, facciamo un altro giorno, però, giusto così per capire se spinge di più rispetto all'altro, capite? Sì, c'è la batteria, aspetta, un secondo. Ehi, sono qua. Oh, sarà esaurita perché sono... è un pezzo che non lo uso, ma insomma... va bene, aspetta. Fai. Oh, la prova radio, eccomi qua. A quanto ce l'hai? Oh, è bassissimo, aspetta. Adesso è a metà. A metà, vediamo. Aspetta. Metti il manetto. Allora, mi sono liberato una mano. Allora, adesso siamo... guarda, troppo. C'è volume. È anche un po' casinato. Ecco, così è il massimo. Così sono al massimo. Forse la batteria sarà incasinata, però sono al massimo. Con i toni proprio alti. Adesso ho messo un po' i bassi. No, i toni... ora sono i toni bassi, ora sono a metà, ora sono, diciamo, sono i toni bassi. E il volume è al massimo. Va bene. Si assomiglia molto alla 60, solo che c'hai i medio bassi più corposi. Sì, lo so, mi sto sentendo, quindi... poi, è così. Sì, sono sempre a distanza dal microfono un palmo più o meno, un palmo, non di più, quindi sento che spinge anche questo. Poi se ho un attimo faccio anche il Turner, un secondo solo, tolgo questo. Prova, e il Turner ti dà un po' di acuti. Infatti, e anche quello già è un anno che non lo tocco. Aspetta, e beh, stiamo modulando, eccoci qua con il Turner più 3, plus 3, glorioso. Una bella modulazione, ogni tanto c'è un innesco, però è bella forte. Lo so, questo era del nostro carissimo amico di Papà Tango, me l'aveva dato lui. Te l'aveva dato lui, quello grigio americano, quello che aveva più di San Paolo, col 430. Però c'è un casino qui. Questo sono... batteria sarà andata la batteria anche questa, però... però funziona sempre, è un bel microfono, dai. Questi sono tutti adattati, tutti già erano pronti per il K perché ce l'avevo sul 140, poi l'ho dismesso, già lo sai, e quindi niente, però vedo che funziona anche questo. Sì, funziona alla grande. Sì, io quello lì, se quello, l'ho lavorato a Giampaolo col 430, poi infatti si aveva tenuto quello, il 430, me l'avevo ripreso. Ecco, qui sono tornato al K, che è più pulito, per me è più professionale questo, secondo me. Non ci sono dubbi, era solo una prova, ci mancherebbe altro. Così come stai in questa posizione sei perfetto, la c'è il processore inserito, le percentuali sono buone, però se vuoi usare l'altro togliti, ricorda i titoli e le batterie, se no ti fa rientro. Sì, sì, lo so. No, no, l'altro. Adesso ho fatto il test, quando è arrivato ho aperto tutta la scatola e quanto c'era per vedere un po' tutto, se funzionava o meno, no, la radio non ha neanche un graffio, tutto a posto e quindi c'era anche il microfono, ora qua lo faccio anche domani, la batteria, è una cosa veloce. Avanti chi vuole entrare, se c'è, perché ci sia qualcuno. Dove? Qua, dov'è? Qui. Io sento solo un fischio, non sento altro. 27205, che canale è? Cosa? 27205, che canale è? 255, il 23? No, 205. Il 20? Apri il culo e stringi i denti. Grazie, sei molto umano. Te l'hai preparata, eh? No, perché ho delle frequenze che mi sono rimaste dal primo TS2000 che avevano, quindi le avevo conservate e quindi le ho recuperate, c'era anche questa frequenza qui, però non c'era la dicitura, non era nominata, ecco, con che cos'è, sì, 20. Va bene, siccome sto mettendo anche altre frequenze e quindi volevo sapere cos'era, ma tutto qua. Va bene, si è perdonato. Ascolta, poi a che punto è? Ha già sistemato tutto? No, penso no, l'ho sentito ieri, ma penso, aspetta, metto CB20, così. M205, ok, Sony non ce ne sono, ok, CB20, va bene. No, Paolo non so che fine abbia fatto, cioè se ha fatto tutto il sistema o meno, non lo so. Ma sarà il parito, l'amico Gioio, il grande laboratorio. Non saprei. Vabbè, se lo senti salutano. Pure non calma già, e andiamo a trovarlo. Uiaia, chi è che sta fischiando? Chi è che fischia? C'hai un fischio, cambia le connessioni, connessioni sbagliate, Giuseppe. Piovendo, chi ti ha detto che sta piovendo? Stai fischiando, non piovendo. Non so Giuseppe, io comunque sento un innesco. Tu te lo senti a Giuseppe Larghiero, sì? Sì, io lo sento quasi a zero, se può dire. Sento che dice qualcosa ma non capisco. Io intanto lo sento con un fischio, non lo so. Questo è in vendita mio, se ti capita qualcuno anche là dove sei tu, capito? È un 14 questo, va molto bene, eh? Nuovo nuovo. Sì, sì, capita. Potrebbe succedere, devo vedere, c'è qualcuno nuovo che è interessato a qualche radio, quindi bisogna... Sì, si può vedere. Quindi tu tanto se no lo fuori, capito? Se no lo... Vedi un po'. Capito? È in buone condizioni, nuovo. È bello robusto in banda, eh? 150 li tira fuori, le altre bande sono invece da 100 in AM, 80 in FM, però è buono, bella radio, l'avevo presa da uno che non la stava più usando. E il K. Attento Gianfranco, basta lavorare con le radio degli altri, io lavoro un po' sulle tue anche, dai. Non c'è, ma che ne so, 7.05, oggi è lunedì, non so se c'è rientro, ci vuole 7, ma sembra strano. Non lo so, io fra una settimana sono ancora là. Dove sei tu? Beh, hai trovato qualcosa poi? Trovato qualcosa di che cosa? Dove sei tu? Ma hai detto che vuoi fare quello spostamento, hai trovato qualcosa? Ah, no, niente, ho visto qualcosa ma no. No, troppi quattrini ci vogliono. Cioè, no, poi non fanno al caso mio, non mi interessa. Peccato lì, porca miseria. Satana arrivava al tempo buono, ci saremmo andati, abbiamo messo qualche altro pistop lì, eh? Porca miseria. Vabbè. bassa. Io infatti non lavoro via l'acqua, non presto più niente. Lavoraccio. Lì al parete non si può mettere niente come qua. Dicevo traliccio, scavo, traliccio, non avevo voluto che andavo tra le due antenne. Ma imparo attaccato all'albero come ha fatto Elio. E ti accampa. E sto qua. Ah sì, beh. Infatti quella che ho visto io non c'è la possibilità di poter mettere niente. Cioè, è come un cieco senza gli occhi, capito? Non mi serve così. No, lì già c'è il posto, che ha voglia, però c'è scavo, traliccio, c'è da comprare il carrello, farlo costruire, ma non è una volta che andare capito. No, è ottimo perché il sistema mi ha fatto Fabrizio, era proprio la parete, che ce l'aveva lui, quindi è un ottimo sistema, però lì non si può mettere. Cioè, si può mettere. Non mi metto perché devo bucare il muro, devo fare, no. Tutto conservato, se trovate una bella campagnetta a Olbia, facci tutti i bocci tutto. Canale 1 LPD 075 mi sembra, vero? Sì, 075. Chi è? Chi è? No, chi parla? Tu sei. No, sono il fratello, sono più piccolo. Ah, beh, come vedi sto avviando il computer. Ovvero. Ma tu sa bene, se noi ti chiamiamo Bruscio o cosa? No, sto provando l'alimentatore, buonasera a tutti. No, l'alimentatore sta riprovando. Ciao, buonasera Luca, finalmente ti sento nel canale 10, va bene, nel 23. Nella seconda postazione arrivi Santiago Zinco e Onchi. Si mangia come cartina che me la sostituta. Non mi interessa, non... Sì, l'ho messo, però non... mi sono staccato anche dell'altra frequenza, tu sì, ma non me la futti qua. Altre cose che fa, no. Io ho detto lì facciamo due chiacchiere, tu ti senti criticato, la gente, cioè, più che ti criticato quasi via da bozzi. E chi mi dice, cioè di viva con i segnetti. Alla fine, guarda, poi ho visto che ci sono anche bambini, ciao, pronto, non se li sento ogni tanto, mi sono rotto le balle. Certo, sentito, io sono sempre ascolto, anche adesso, solo sto parlando qua e abbasso il volume, non mi piace. È divertente, però, quando poi iniziano a rompere le scarpe, già ti ho sentito l'altro giorno che... eri a bozzi, e vabbè, fottiditi. Vai avanti per la tua strada e fregate. La passione della radio è quella, che hanno ribbiateci la giamba. Vai te. Ehi, mi stavi dicendo, buonasera Luca, mi stavi dicendo? Il PC si stava parlando con l'installato, adesso sì che funziona. Quello tuo, quello che avevo fatto io. Però mi sta chiedendo di rimpostare la data e l'ora, strano. La batteria l'ho controllata del BIOS, è a posto, è carica. Ho fatto delle prove e poi ti scarico quello che devo scaricare. Non so, se ti serve io te lo do anche domani. E se no, faccio fare gli aggiornamenti. No, non mi serve, tranquillo. Qui c'ho anche il Mac. C'ho un altro portatilino qui, c'ho il Mac, quindi non mi occorre. Tranquillo. Adesso ho portato il cane, là. Lì a... Non è fatti di molti... Montaletto, lì c'è il coso, la veterinaria, no? Per visitarlo, così, papà ci ha messo 20 minuti, 30 euro mi è costato. E poi altre 40 euro di medicina, praticamente c'ha l'ottite il cane. Mi ha dato queste medicine e questo spray da spruzzare ogni giorno, una volta al giorno. Adesso vediamo, poi mi ha detto appena fa questa cura di antibiotico, a riportarglielo lì, altro non mi fa pagare. Comunque, a quanto ho capito, dice che il cane ha dei tumori. Facciamo quanto mi costa per operarla, cioè buca a levarne del tutto. Cioè, fanno la cosa, la biopsia prima, no? Controllare se sono maligni o benigni. Perché se sono maligni dice che la svuotano praticamente, ne buca è utero cantuve. Oltre 400 euro mi costa. La Madonna. E che veterinario vai? Sì, a Lissedue, a Montaleppe, qua. città, lì ha la, come si chiama, lì ha un ospedale, diciamo. Ah, la clinica universitaria. Infatti ho detto, ma qua, magari qua risparmio. Nulla. Allora mi costa 160 euro per sedarla e 250 euro per operarla. Beh, dopo, ma... non le conosci i veterinari? No, non ne conosco. Sciogliessi. Allucinante. Ma per fargli un'operazione? Certo, tu la controlla se sono questi tumori, sono maligni, devo fare la prova, no? Certo, poi uno non l'ha pure ancora, è peggio, va. Ma infatti ho detto, non posso affrontare una cosa del genere. Ho detto, posso venire incontro, facciamo a poco a poco, adesso 50, ogni mese. Ho detto, non sto lavorando. Inutile che lei mi fa poco a poco, quando non me lo posso permettere, adesso ne parlo con mamma, vediamo un po' se mi aiuta, si fa, se no, adesso gli culo l'orecchio prima che c'è questo pus, e poi vediamo un po' questi tumori. Dottor Fracassi, un bravo veterinario, è il dottor Fracassi, Domenico Fracassi si chiama, ed è anche Togo come veterinario. Ma un effetto, fate troppo burrotto, capito Natalini? Troppo burrotto fate, fracasso. Non è fate, è burrotto. Ed è anche dopo come veterinario. E vai, vai. Vai, troioso. Io c'ho la Panfossi qua in via Vanabasso, non cambio con nessuno. Allora, animali muoiono gana, ma vedete di notte, dai vedete, a luna di notte, allora, in ambulatorio è rimasto. È sceso dal ghero con l'elicottero volando, capito? Perché c'è a casa dal ghero alle 10 di notte, ho portato il cane alle 8 a fare la pipì, che stava pisciando sangue, moscio moscio, un'infezione allucinante, non si sa da che cosa, e domani muoio un cane finta a 9 minuti, se quello ve lo portavo mi muoveva il cane. Eia, qua scheggia, Lo so che è veloce, lo so, però non capisco perché si è spento, qui non ci andava più, vabbè, meglio così che si sia ripreso. Io lì per lì ho pensato con l'alimentatore, ma ho notato che nell'altro computer fisso ci sono i cavi degli alimentatori tutti inastrati, in isolante. L'ho visto anch'io, purtroppo siamo zappato dentro. Comunque da lì se troviamo un case se ne può fare un altro. Sì, bisogna trovare sì, quella cavetteria lì va bene per quel case lì. Bisogna trovare un case uguale, noi le attacchiamo il frontale e gli mettiamo nell'altro case. Allora si può fare se tranquillamente. D'accordo. Ma qual è il tuo, se? È uno dei miei, ne ho diversi, uno dei miei che era qui, inoperato, in disuso, diciamo, perché si era spento, non capivo perché, l'ho portato da Luca, si deve vedere, ma quello ha più pazienza di me, adesso uno è risorto. E io quello che c'ho vecchio, alla fine l'ho porto, e allora Luca, allora com'è, tacò, agatamene uno nuovo, mi ha trovato un bello nuovo, e quello sempre fermo qua sotto la scrivania. C'ha tutti i programmi dentro, c'è anche il cluster, c'è tutto, capito, un sacco di cose. Anche quello si spegne. Insomma, è un pochino acceso, poi si spegne. Va in protezione, Cla. Solamente sul riscaldo del processore, va in protezione, si spegne. Sai cosa, che è un PC vecchio. Chi sarà un 21-4 sicuramente. Io te lo ricordo, l'avevo messo a posto tutta una volta già, mi rimasi quando eravamo su Palcalco. Arriva subito a mezzanotte, con più inserito, era a casa tua, poi la prima mi sono rotto la scatola, io compramelo nuovo, ho comprato quello che ho, lui. Non si discute, è una cosa da favola. Ma anche a costo di telefono, è un tuo PC, perché c'è la pagina, se un PC non serve a nulla, la pagina aveva i buoni 2 secondi ad aprire. ritira su internet, tra 2 secondi. Diciamo, non è che sia al massimo, ma anche questo qua non è male come computer. Per quello che deve fare lui, ce n'è per i polci, poi. Ovvio, se lo usa per giocare, allora bisogna potenziarlo. No, quello che mi ha dato tu è velocissimo, ma poi no. Faccio sempre gli aggiornamenti, mi l'ho acceso la sera per vedere un mese, stavo aspettando, è velocissimo. Mi ha chiesto subito gli aggiornamenti perché era un po' che non accendevo, gli ho fatto fare aggiornamenti e non l'ha registrato. Va bene, va bene. E beh, Natalino, quando lo fa vedi? Passo sul 7 alfa un attimo a fare una prova radio. Ce l'ho in monitor, prova a vedere. Sì. Natalino, catturando vagenti, non fa vedi. Italia, Natalino, è Claudio, buonasera a tutti. Ma sarebbe il 7 alfa? Italia, è un ponte radioamatoriale. Ah, non 7 alfa, è Maracchino. No. Anche oggi abbiamo le sigle. Ciao Gianfra, buonasera. Mi è arrivata quell'email, te la dico qua o ti telefono, lì di che mi è arrivato il numero? Sì, buonasera ancora a tutti. No, non c'è bisogno, io Claudio sono collegato e ve l'ho già nel momento in cui è operativo, quindi lo so già e già ho messo in radio. E niente, quindi dovrebbe essere più o meno a posto. La radio fosse buona, ma la radio non è tanto buona, soprattutto al centro, però è tutto a posto, diciamo, in diretta adesso non fa più quel problema. Bene, sì, infatti ho acceso il computer, ho visto l'ID DMR. Cos'è? 742 finale? Sì, confermo. Sì. Mentre sub 1 invece è 2220, sì. Bene, ok. Ben arrivato in DMR. Insomma, manco io, Bobo. Siamo voi. Ma hai detto tu, mi fai l'iscrizione per usare i punti, se non mi faceva entrare, io l'ho fatta. Sì, io dico, ma mi sono allontanato un secondo. Sono passato lì, Claudio. Sì, bellissima modulazione, ti ho sentito. Poi citi bene, passi bene, tutto. Va bene, allora chiamo. Faccio una telefonata a Paolo. Buonasera Gianfranco. Paolo le faccio entrare lì e poi faccio la prova anche con Paolo. Chiappa. Ehi, chiappa. A te Gianfranco. Sì, ciao Stefano. Buonasera, ben ascoltato. Io sono un po' impegnato. Vi ascolto un attimo perché sto finendo di costruire un'antenna, o meglio, ho finito di costruire una mini direttiva che mi serviva a Kevin. Adesso devo collaborare con l'analizzatore di spettro. Vabbè, l'antenna. Ok, Claudio, poi. No, guarda, ti stavo dicendo l'apparecchio, ma ce l'ho io qua, figurati quando sono il coglionista. Ce l'hai tu lì che lo stai programmando, cosa? Io non ce l'ho qua, no. Ascolta Gianfra, ma è direttiva di che genere? Qua ti serve una direttiva UHF? No, adesso ne ho 3. Me le costruisco io, ho capito. No, e ce l'avevo io, ce l'ho una in più. Lei è contenta, molto bella. Molto bella, non so quanti elementi è, ma non è grande comunque. Non è grande. Se ti serviva, non ci sono problemi, ce l'ho. Sono al telefono un attimo. Sì, kappa. No, adesso. Quanti elementi è quella lì? Cioè quella è lunga, è molto. Perché non è che ci abbia grande simpatia. Le costruisco le antenne, però non. Queste direttive mi fanno un po'. Questa è per un uso professionale, ma. Se riesco a fittare un pillole forse ce lo facciamo e quindi me le fabbrico, capito? Almeno faccio qualcosa. No, Gianfranco è grande, ne sarà quante è questa scrivania neanche. Anche più corta, sarà un metro. Anche se ho neanche un metro e mezzo. A 1,20 m di antenna. Là sono sul 7 alfa. Sì, sono in ascolto. Capito Gianfra, se ti serve non c'è un problema. Nuova, mai montata. L'ho solo assemblata e basta. Provata, perfetta. Ma quel folle, può tornare in tre, in parecchie situazioni. Stefano con Paolo sull'R7 Alfa. Nathalie, attuando per niente non fa vedere, diciamone non risponde, ma cosa ci devo fare io? Dimmi cosa ci devo fare. Non ho voglia di parlare. Vabbè, fai come ti devi. Sì, Gianfranco, non problem, capito? Se ti serve me lo dici. Così te la preparo, te ne lascendo. Non ti sente Gianfranco, no? Sì, aspetta un attimino che mi sono caduto, ma ti devo ascoltare. Però non è scaffita una PL. Sì, ascolto tutti, vabbè. Allora non mi diceva mai ascolto tutti o no. Va bene, già sono qua. Appena una cosa, grazie. E intanto sta salutando. Mi serve un controllo di segnale, tra. Aspetta, che metto gli occhiali. Dai, veloce. Vai. Vabbè, questo qui è uno. Sì. Questo qui è l'altro. Il secondo ci sono 10 dB di differenza. Così, vedi un po'. Allora ti dico che col primo che hai fatto c'è 9,15, col secondo 9,20 e col terzo quasi 25. Buona, ok, ciao, grazie. Fateci veloce. Cari, io oggi mi usavo la gnacca, oggi andavo a travagliarmi, non so come te pensionato. Vabbè, se vuoi farti compagnia, già lo sai che vengo io a riscaldarti se c'è freddo. Il posto ce n'è sopra quel mezzo, sì. Sì, c'è un altro sedile leggermente più piccolino, ma è a fianco a me. È un freddo, grazie. Ma chiuso, sì. Grazie, allora beggio. Vabbè, ha diritto di beggio. Ma quelli già sono mezzi nuovi, li ho visti una volta parcheggiati lì. Va bene. Ok, dai, saluto anche Gianfranco, saluto chi fosse in ascolto, che mi siedo a mangiare la pappa, là. Ci sentiamo, ciao. Grazie, mi accendo il ricevitore, mi ascolto la linea qua, spengo tutto. E chiamaci lì, d'accordo, va bene, dai, buona pappa, buon tutto. Ciao, buona serata, ciao. Ciao. E beh, te, ho visto che ti ha fatto regolare Paolo. Vabbè, cos'è? Si è staccata l'antenna. Cos'è? Ho detto, ma l'hai fatto quel connettore del microfono normale? Ci sei riuscito? Ho capito. Non sei tu poco fa provando o c'avevi un fischio, quindi i contatti non erano giusti. Ehi, questo rumore cos'è? Ah, ci sentiamo dopo, mi sto allontanando. Sempre qua sogno, ancora per poco, poi vado a portare a mio nipote a fare i bisogni. Ah, ok, dai, allora ci sentiamo dopo cena, ma... Ehi. Quindi l'hai terminato quella calibrazione, memorizzazione, giustificazione, tutto. Se ti riferisci all'antenna, no, ci è uscita a 380 MHz, un po' bassina però. quindi la devo regolare. Se ti riferisci all'apparecchio, quel problema del pulsante è eliminato, quindi pare che riceva regolarmente. Poi cosa ti volevo dire, purtroppo non è compatibile con i ripetitori speciali, quindi quelli a banda singola, ti ricordi che l'avevamo provato anche con Stefano, faceva questo, quindi la situazione tecnica è un po' complicata, ma è dovuta essenzialmente alla velocità di commutazione che non è adeguata. Poi sui ripetitori esce, come dire, uscendo con 4 watt non riesco a raggiungerlo, l'ho provato anche con la direttiva, sembra che li senta, però non riesce a entrare, però di lì ci dovrò dare qualche altra chiatina a prendermi, a braccio 5 minuti di tempo, salgo in zona alta, se posso essere più preciso. Va bene, e poi già detta quanto una grande io, ci baciamo macchine a DMS. Va bene, poi te l'hai programmato, hai fatto tutto, ok. Paoletto, se riesci a tararla va bene quella lì, se no te la do io, ce l'ho io nuova, della Ecco, mai usata, capito? Senti, io non me ne faccio niente, non le uso. Ho le altre due sul ricetto piccolino, sul sistema piccolo, dove c'è la monobanda per le V e monobanda per le U. Capito? No, ne avevo una in più, quindi che è uguale a quella che uso io, che funziona molto bene. Lo so, qua, ma ogni tanto ne smantello una di queste, quindi non mi serve, davvero, la sto costruendo piccola, proprio perché mi serve molto, molto, molto piccola, perché ne ho altre due, ne ho una piantata sul tetto, proprio per l'imbara, e va benissimo, e adesso ho fatto questa, che la devo un po' segare, per abbassare la frequenza, tutto lì. Si è spostato un attimino in banda vettoriale, poi l'ho perso, non so dove è andato. Voi al telefono con Paolo. No, non c'è Don Luca. Va bene, Gianfra, dai. Come vuoi tu, se hai bisogno, già lo sai che non ci sono problemi. Sì, se lo puoi provare da parecchio in un, poi dimmi tu, mi dà una frequenza, lo senti. No, non devo provare nulla, io mi fido ciecamente di quello che mi dici. Quando me lo ridai facciamo tutte le prove, tutte in BMR, non c'è nessun problema, ok? Come vuole lei? Vado, mi allontano un attimo, che devo, cioè ci sentiamo dopo, lei direttamente, tu porti il cane, io faccio un'altra cosa, ci sentiamo dopo quando risalirà. Io tanto lascio tutto acceso qua, va bene. Ciao Valè, buonasera. Cosa dicevo? Ti avevo sentito che stava parlando Gianfranco. E ti ho sentito tra un passaggio e l'altro, infatti, però ho risposto a Gianfranco che sta facendo cosa, tu ho risposto a te. E io ancora mi devo preparare. Per mezza, che adesso sono 7.25. Adesso mi preparo e lo porto. E tu acqua più tardi, capito? Se no avrei provato più tardi, però la tua pioggia non si sa mai, preferisco uscire adesso così anche lui è a posto. Dai ragazzi, sentiamo dopo. C'è da Natalino, lui però non mi ha risposto, o c'è gente o sta facendo cosa, non lo so. Vabbè, dai, io vi saluto, ci sentiamo dopo. Sì, io mi sto prendendo il bici di Stefano, dai, che così domani sia pronto, quindi lo vado. Ciao, anche a Valino se mi ascolta, lo ascolto un po' bassino io. E allora, dai, tra un po' scappo anch'io, dai. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, Lugarie. Ma è come quello mio, quello di Stefano? O il mio è più grande? Ehi, più o meno, dai, il tuo è Lenovo, questa è un'altra marca. Ma va bene, va bene. Ascolta, a proposito, guarda, Cla. Allora, così, qua, vabbè, sentirai il computer adesso. C'ho questo alimentatore, no, che mi hanno regalato, di quelli, sai, quelli che vanno su internet. Allora così ce la metto alla spenta, no? E così è accesa, si sente? Lui si sente ma non è fastidioso, lascia stare accesa la ventola. Io ce l'ho quello lì, quello in alluminio scatolato, lì si sente. Sì, bravo, bravo, sì. Funziona bene. Io uno a 35 amperi ho collegato al 756 della ICO, manco lo bello rigocca in banda laterale a 150 watt. Ma questo è da 50? No, non mi va a 35 ampere, l'altro che c'ho della Proxel è da 50, capito? No, no, vanno bene quelli, sono una cannonata, lui. Lascialo stare, che funziona molto molto bene. Sì, ma infatti quello del computer l'ho levato, perché no, era piccolo. No, questo va bene, dai. Però non so se l'avvento a staccarla, ma non c'è bisogno, non è che assorbe molto questo baracchino. Lui è sempre meglio lasciarla attaccata, sono dei switching che hanno bisogno di lavorare a una certa temperatura, lasciagliela attaccata, non ti cambia niente, so che è rumorosa, anche la mia, cioè si sentendo un sacco il gasino, però è importante che rimanga attaccata, capito? E ieri, no, sembra che sia a posto. Dopo che ci luci tu mangiato, praticamente non riuscivo a entrare, stavo operativo, boh. dovuto aspettare un po', non caricavo, capito? Di solito carica subito. Però là, sono riuscito a farglielo ripartire, lui se lo usa. E niente. Vabbè. E tu ogni volta facciamo un po' di manutenzione, sì. Io lo accendo e funziona perfettamente tutto. Quando mi richiede gli aggiornamenti, glieli faccio e lui è sempre a posto. No, vabbè, manutenzione intendo, cioè, quando, come si dice, pulizia a vento, c'hai qualche anno già adesso, no? Sostituirgli la parte dell'affreddamento anche, insomma, che scaldi, vedere un po', lubrificargli la ventola, dai, queste cose così. Io della giubbotta è rimasto, non lo tocco perché non è il compito mio, quando vuoi che sei libero me lo dici, te lo porto, intanto oramai sono a casa, quindi ci possiamo vedere a tutte le ore che vuoi, di mattina te lo porto, lo stacco, le fai la pulizia che devi farle e poi me lo riprendo. Sì, non c'è problema, tu ci sei tranquillo qua. Questo di Stefano è a posto, tutto fatto, tutto pulito, no? Ecco qua, perfetto, no, va benissimo, poi anche veloce. Però avere i suoi anni, cioè non è male, è abbastanza velocino. Sì, ma infatti, no, io non tocco l'uno, non è compito mio, lo sai, dice tu. Quando ti liberi dici, clami che questa settimana sono un po' libero, scendiamo al computer, te ne scendo, lo provi, lo vedi, se c'è a fare aggiornamenti glieli fai, lo pulisci e poi me lo dorsi. Ma io non tocco nulla, no, sono ancora per mettere le mani, cosa devo toccare, lascia perdere. Tornato sono mi. Allora, discorso del computer, che se lo lasci, cioè lo usi, le pulizie del sistema operativo, cioè quelle cose, i file temporanei, queste cose così, una gazzata, che col tempo magari la ventola, vedi, per esempio la ventola di Stefano l'ha bloccata, lui non se ne è accorto, ma l'ha inchiodata, anche per quello male, sicuramente il surriscaldava troppo, andava in protezione e si spegneva, però tu stai, mi hai detto a me che il PC non accendeva più, giusto, mi confermi? Sì, confermo, non accendeva proprio più, niente. Infatti in questo computer è stato messo l'alimentatore nuovo. Capo. Ehi, aga. Vabbè, dai, è a posto comunque. Davvero. Sì, domani con calma. Claro, io sono libero, se lo vuoi portare uno di questi giorni, boh, tipo giovedì, mercoledì, se sei libero, ci lo scendi. Cosa adesso, verso le... Tanto ci metto un'oretta a farlo, dai, più o meno. Questione di un'oretta, fai due ore, là, giusto per... così sei più tranquillo. Ma tu non hai scarpe antinfortunistica, Luca? Cosa? Non hai scarpe antinfortunistiche? Scarpe antinfortunistiche? Ehi, se c'hai quelle scarpe antinfortunistiche non ne hai in più. Perché? No, sto chiedendo, se ne hai in più mi servono un paio. E che numero? Fai tu a occhio. Tu fai a occhio. Beh, di un paio che c'hanno la punta consumata, a occhio ti esce il dito fuori, bene va. Fatemi portare al cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ragazzi, ok? Hai visto quanto arriva bene Paolo? Ma l'avevo già sentito, lo sento spesso quando parla con Walter, con la Greta, arriva benissimo, arriva maletone pieno quel po', ma anche la tua modulazione è molto bella lo stesso. Sì, ti saluta, mi ha detto. Contraccambia sempre, bravissimo, capito? Sempre. Va bene, portaci il cane, portaci. Vabbè, se volete domani mattina potevamo prenderci il caffè, se volete. Io non ci fa nulla, non c'è problema. Tu a me mi chiami, mi dici cosa devo fare e io lo faccio, te lo sai. Così poi, così domani mattina, questo ma domani è pronto, te lo porti via, te lo provi. E così mi preparo il, come si chiama, il portatile, vediamo un po'. Il danno, se riesco magari a fare una specie di modifica, tu vuoi questo PC, sì? Sì, quello è mio. E modifica, dovevo metterci l'atta, che cosa? Hai visto quello dove il pulsante di accensione che proprio devi premere in fondo, no? Non tocca la lamella, capito? È un casino. No, rimuni attack, no, se. Qua si parla di mettere delle bullo, delle vite, c'è delle, delle viti con dei dadini, poi ho già fatto una modifica del genere. Se vuoi risparmiare, ma alla fine poi non è che si vede niente, che fai un foro, poi diciamo il dadino rimane all'interno. Dai, vediamo cosa riesco a fare. Poi sicuramente qualche parte da incollare c'è, perché ho visto come tu apri quel tappo lì, si solleva il tappo dove c'è il tastino d'accensione. Dai, già vedo un po' cosa posso fare, dai. Tu potresti sempre vedere un po' se si recuperano i pezzi di ricambio, se costano troppo pazienza, allora lì facciamo quel lavoro lì. Va bene, Cla, dai, ciao, ci sentiamo, perché anch'io fra due minuti devo chiudere, devo fare roba qui in casa. Ok, sentiamoci in mattinata, intorno anche alle 10, va bene, e poi ci prendiamo un caffè o quello che volete. Cappa. Va bene, Luca. Io so cosa prendi tu, quindi. Va bene, Luca. Siamo qua d'accusisi. D'accordo. No, Stefano fa l'inaugurazione all'americana, capisci? Hai detto, si biglia un dosto e il succo di arancia. Portami le scarpe. Qua, adesso le prendo dal poggiolo che sono ancora fuori. Appese, capito? Te le porto, così te le misuri, se ti stanno bene, se no ti uscirà il dito fuori. Vabbè, tu portale, poi io vedo un po' cosa posso farlo. Ma per uscire, beh. Si tornano bene, alla grande, poi sono le ultime che mi avevano dato, hanno pochi mesi. Sono della Diadora, bene, anche di marca sono. Bene, così almeno si vede la marca, si confondono. Se sono più orgogliosi dei cinesi. Vabbè, dai, mettere una busta. Ma ascolta, ma il tosto adesso te lo ordino, domani mattina. Se lo ordino adesso, poi domani mattina si brucia. No, domani mattina direttamente. Va bene, eccomi, dai. Allora domani mattina. Io verso le 9:15 porto il cane, quindi 20 minuti. Come facciamo sempre, dai? Per le 10 ci sentiamo e così andiamo a prendere un caffè. D'accordissimo, così ho il tempo domani mattina di fare delle commissioncine e poi sono libero anch'io. Va bene, io chiamo alle 10. Ciao a tutti, per me è QRT. Ciao, ciao a te. Ok, chiama Luca, io già so già quello che devo fare. Ciao. Ciao Luca, anche a te, ciao. E così era. Sì, domani mattina ti chiama Stefano, verso le 10, capito? Poi ci vediamo. Cioè ti raggiungiamo noi nella zona tua. E vabbè, se mi lo sposto già sono in macchina, non c'è problema. Non c'è problema. Uff, è casino, ragazzi. Casino, là, casino. Mi lasciato un po' di travaglio, come no. L'avrei fatto fare a questo cane. Perché mi dispiace. Stavo spiegando che questa cosa più va e più peggiora. Adesso vediamo. Giustamente, come tutte le malattie, se non ti curi, poi peggiori. Bisogna riprenderlo subito. Vabbè, Luca, piano piano, dai, vado a portare il mio adesso, ci sentiamo dopo, se coincide, se no ci sentiamo domani mattina, ok? Via, tra poco vado via, domani, ciao. Ciao, Gabriele.